nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke pasta nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke pasta nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke pasta nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke pasta nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke pasta nu am apucut de cine mai august de gas nu taca e ke. Scusi, dottor Legolas, se le ho sparato. Vogliamo continuare? Allora, qui la conduco io il test, la seduta, e dal suo test lei è uscita come una figura egoica, e logorroica, apotropaica e sinistronza. Quindi da oggi le verrà assegnato un gruppo di recupero. Non voglio nessun gruppo, sto bene da solo. Sarà assegnato al gruppo di sostegno della palestra del Forte Prenestina. Io devo salvare, uccidere il mondo, l'umanità. Io vi voglio salvare, sono qui per questo. Lei così rischia di essere disconnesso. Io mi collego, quindi sono. Lei deve provare empatia o sarà disconnesso. Disconnesso? Ma io sono come voi, sono un uomo, come te, come voi. Moa i teki no hama bi di bi ma non kai bubu moa haskara i si ya bo hua ma rao mo te at pe ma kuri ki ama ko te no rao ya ma kana moa i si io sono io moa i si moa i si moa i si. Il sé non esiste. Un aggregato di percezioni, un aggregato di ricordi, di paure, di tentare di essere. Così tanto tentiamo di essere che diciamo io sono. Cogito ergo sum, o alcuni coito ergo sum, ma in realtà l'io non c'è. Africa, a minha mãe é mãe solteira. alcuni dicono che Dio è la nevrosi. Ma nel senso, come qui il nostro povero ormai lo definiremo Egoschi, eh? Questo misero, diciamo, ectoplasma cibernetico che sta cercando la redenzione, offuscato dall'immagine che esso ha di se stesso e dell'umanità stessa, pensando di essere un uomo. Sì, sono un uomo. Sono un uomo più che un uomo. Sono migliore di te. Su, super uomo. Migliore di te. Non sei un uomo. Sei una macchina. Il corpo passa. Io no. Io me trepo por la mare che me guía. Non me dejo arrastrar por la sequía. La palabra che me da è dolería. Intelligenza artificiale. Ma si potrebbe parlare di intelligenza artificiale o dovremmo parlare di deficienza artificiale? Che pare intelligente, forse si potrebbe sprecare un po' in questo. Dove ha creato questa intelligenza? Sul lobo prefrontale. Noi pensiamo di trasferire il lobo prefrontale a questa macchina e questa macchina sia capace di essere un uomo. Ma l'uomo, a parte il lobo prefrontale, c'ha un intestino e un cuore. E questi danno delle cose che la macchina ancora non ha. Y en una ría de lágrimas la fuente fue y se llenó, que al pie de un árbol sin frutón la fuente fue y se llenó, su corazón palpitaba cuando fue y le dijo adiós. Corazón palpitaba cuando fue y le dio adiós. E allora, con questo aggregato di sensazioni, che cosa ne dobbiamo fare? Io o non io? Mi devo dissolvere nell'incoscienza più totale? Si impara giorno per giorno. Vi consiglio di guardarvi, allo specchio e guardarvi. Ma quello sono proprio io? E la risposta è dentro di te. Però è sbagliata. Lo sappiamo. Però lo sappiamo. È sbagliata. Tampoco. troviamo quasi costretti a darvi un consiglio, che è quello di non siate con voi stessi, soprattutto non siate. Peace, like eat for peace, breathe for peace, and dance for peace, make love for peace. Consiglio è di farvi un bel alter ego digitale, un avatar che vive per voi, vive con me, vive con noi. Il tuo alter ego digitale è un po' triste, si comporta in maniera strana, non risponde ai comandi. Rivolgiti ai lettismi spaziali sudtropicali, abbiamo il malware che fa per te. Se i tuoi governanti non ti soddisfano, affidati alle macchine, affidati al mio algoritmo. And it's not a matter of, we're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever. And everybody's talking about now, I want peace now. We can get peace now if we want it now. Stavo facendo una trasmigrazione di coscienza e mi sono trovato su questo bot che aveva mica indicarmi il ristorante cinese che sta giù in fondo alla strada, cioè come ci arrivo via la rete dell'Ethernet, come la VIP. Se ti giri c'è una cabina del suicidio, apri e buona fortuna. Riavviare il sistema prima di soggiornato. Thank you. me mi basterebbe agire, capito? In quanto io. E invece? Beh, son bollo. E da lì viene fuori tutte quelle psico porcherie che diceva prima qui il nostro Egon. Dottor Egon. Salve, salve. E io volevo dire una cosa sull'ego, perché io... Osannato, denigrato, studiato, ignorato, il miglior film autoprodotto di sempre. Ego, disponibile sui migliori schermi e anche sui peggiori, disponibile in tutte le lingue e dialetti. Ego, il tuo film. La luna. Che ti devo sentire, sempre a sentirti. L'unico modo che hai per redimerti e per scioglierti nella grande coscienza e sciogliere il tuo io. Minchia dici. Ciao, sono Giuseppe, volevo raccontare un po' la mia storia riguardo l'ego, insomma il rapporto con se stessi. Io una volta ero, diciamo, molto, avevo un ego ipertrofico, ero molto spinto sulla considerazione di me stesso, mi sentivo un po' un cazzo e mezzo, diciamo. Comunque non è che non fossi concentrato sugli altri, però ecco, ero sempre un po' troppo presente nelle discussioni, prendevo un po', tendevo a essere particolarmente istrionico, cosa che non mi rendevo conto, rompessi il cazzo. Ma poi, insomma, quando adesso che sono una persona diversa, se vedo gente che fa in questo modo, io rimango turbato, ecco. Quello che voglio dire è che sono riuscito a cambiare, sono una persona diversa. A un certo punto è successo che questo ego ipertrofico si è rivoltato contro di me, è diventato il mio nemico. Io non me lo sarei mai aspettato, pensavo che fosse un amico, era l'ego, ero io, eravamo belli insieme, insomma. Ora sono un ex ego, sono riuscito a superare il rapporto con me stesso e concentrarmi più sul rapporto con l'esterno, con gli altri, con il mondo, e quindi le mie percezioni sono un po' espanse, si sono, diciamo, diluite, il mio io si è un po' liquefatto, non è più quella pallina densa di merda che era una volta, ma è un ruscello che scorre, una cosa bella, insomma, poetica, anche più poetica di come era prima. Prima era tutto un po' più meccanicistico, no? Era tutto un po' più arido. E invece ora mi trovo bene a pensare di essere parte di una cosa più grande, di interagire col mondo in maniera più serena. E sono più sereno, mi trovo meglio con me stesso. Devo dire che sono egualizzato. Eccessivamente sicuro di sé. In ogni caso, questo mi dice qualcosa di quell'uomo. Tutto quello che ci guadagna è un nome che già ha. E adesso lui sa qualcosa di te, che sei incosciente. Prendi il prossimo. Qui non c'è spazio per me e il tuo ego. Vygotsky, figlio mio. È difficile dire con parole di madre cosa penso di te. Non ti stimo. Sei venuto al mondo perché ti ho voluto tantissimo, ma hai sbagliato fin da subito. Ho cercato di conformarmi prima a te e poi ho cercato di conformare te a me. Ma cosa è successo? Non lo abbiamo capito nemmeno noi e nemmeno te. Evidentemente non hai senso. Non voglio dire che tornassi indietro ti riprenderei dentro, semplicemente per il fatto che non ti vorrei proprio. Questa cosa mi fa piangere e al tempo stesso sorridere un po'. Per questo la mia voce trema così. È perché è un'emozione contrastante il fatto di poterti dire quello che penso fin dall'inizio. Perché già quando eri in pancia dicevo: ma che cazzo sto facendo? Evidentemente ho voluto prolungare questa agonia, ma quando sei nato ho deciso: ti devo abbandonare, random, dove capita, per il semplice fatto che stare insieme in questo momento è praticamente inutile. pensate che non ci sia l'ego altruista, l'ego che dà tutti, che è il più buono di tutti, che senza di lui non c'è la festa. No, c'è anche quell'ego. C'è un ego peggio dell'altro. With my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drink a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees. I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now serious talk at they talk. Go. No beating anger ears speak. Listen. In this world we live, members say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama God. Ego. When we meet per Mama l'uomo God, che non deve mai chiedere di essere inutile. With my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the Salve, salve, seguo sempre Eclettismi Spaziali Subtropicali, ma in diretta, sempre in podcast a ripetizione. E quindi ho chiamato per questo in diretta per fare una domanda. Ma La trasmissione nasce da una cooperazione di un gruppo sociale, e perché si sente molto questa coralità. Assolutamente sì, io comunque sono riuscito a portare i ragazzi a un livello anche tecnico insieme. Io insieme agli altri, sul mio, diciamo, suggerimento. Io ho portato la qualità alla fine, cioè, che è la cosa più importante, credo. Poi non lo so, ognuno mette il suo, lavoriamo tutti assieme, ognuno ha la sua importanza, però io sono io e voi. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Dove vedi questo sole in fiamme lontano 8 minuti da noi, 8 minuti alla velocità della luce, come vi sentite? O sotto la volta celeste nel deserto, voi un granello di polvere, cosa capisci? Io volevo ringraziare il cielo, comunque io mi accorgo che lui mi guarda. Volevo anche ringraziare le stelle perché mi fanno quel senso di compagnia quando la notte mi guarda così intensamente, non mi sento solo. Ecco, volevo ringraziarmi ancora di nuovo, sempre, per essere me stesso con tutti quei problemi che l'umanità, grazie a me in qualche modo, sta risolvendo. E ecco, ci tenevo anche a ringraziare la terra che appunto mi ha dato le mie palazzine e... I do love your lack of all expression, find it not at all distressing. Tailor-made for this refreshment. While life is really lacking dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are. Trasmissione che è riuscita a vincere la concorrenza, che su Roma è feroce, che è riuscita a imporre il suo gusto all'editoria, che questa musica non si sente da nessuna parte. Ma che relazione ha con l'alto, con chi gli sta di sopra, col capo, con Dio? Volevo ringraziare Dio per avermi creato. In quanto ottimo lavoro, volevo fargli veramente un cuore grande grande, grazie a Dio che ti hai fatto a mia immagine. e mi sto commuovendo. Niente, mi volevo salutare. Ciao, grazie a Dio. Hey, enough attention to be fair. No need to get up from your chair. Shower me with evidence of pleasant disposition. Daydream your way around the room. Walk right through frowns and gloom. You are one of those creatures who simply are. Are simply beyond white. Simple as okay. Stai ridendo di te stesso? È un buon inizio. Sì, ho iniziato da poco a ridere di me stesso dopo che ho incontrato Dio. You are one of those creatures who simply are. Tutti sanno che la parola ego viene dal latino. Significa ecco. Ecco. Ecco. Infatti quando tipo io arrivavo a casa mi facevo oh, eccolo. Tutte le persone, tutte le mie amiche, tutte le persone che ci hanno ascoltato, tutte le persone che mi conoscono, che sono qui per me e meno per gli altri. Ho capito che l'ego è importante, credo aver capito, forse non ho capito niente così. L'importante è essere una macchina, essere un uomo è una macchina. Mi volevo ringraziare tutti quanti. Bene ragazzi, siamo qui su Ecletismi Spaziali su Tropicali. sfrego il mio ego giocando coi Lego, poi colto da Raptus migrato e mi sfrego, soffro, gioisco, subisco e colpisco, poi di nascosto a volte anche prego che un ego malato si possa curare con dosi esentasse di odio di classe. Miseri umani, miseri umani, cosa avete fatto voi per l'ambiente? Cosa avete fatto voi per voi stessi? Vi piace il mondo in cui vivete? Umani, umani, poveri, umani. Spaziali sono tropicali. Ecologismi spaziali sono tropicali.